Vai. Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, programma che inizia ora fino alle ore 21:30, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Bene, eccoci qua, questa che abbiamo ascoltato era la sigla iniziale di questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Altra cosa, che siamo in diretta oggi giovedì 29 febbraio, vabbè, anno bisestile, quindi il 29 febbraio capita raramente, cioè capita raramente, ogni 4 anni, però Magari è difficile che cada di giovedì, dato che noi da un po' che facciamo questa trasmissione e io non ricordo sia mai caduta di giovedì. Boh, chi se ne frega, sarà caduta anche già due volte negli anni bisestili, che ne sappiamo. Non abbiamo registrato queste cose, ma ora andiamo invece all'ascolto di una band svedese. Loro sono gli Asocial, band che si è formata nei primi anni 80, all'incirca 40 anni fa, proprio nell'84, registrando alcune demo tape, e poi hanno fatto uscire dei 7 pollici proprio alla fine degli anni 80 e primi anni 90, band che si è sciolta per poi riformarsi circa 6 anni fa, 7 anni fa, e ha fatto uscire il disco che andiamo ora ad ascoltare così a bomba dopo tanti anni. Penso che il titolo giusto di questo album sia Dod at Capitalismen, spero di averlo detto giusto con la mia pronuncia svedese, che potete sempre ascoltare. Comunque andiamo con Asocial. Come on! Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zernis Magnetics, un saluto particolare a chi si trova ristretto nella sua libertà personale e riesce comunque ad ascoltarci. Allora, questa sera, prima di entrare proprio negli argomenti così che abbiamo ai quali abbiamo pensato e che, a chi riceve così la scaletta come promemoria li conosce già, volevo fare una così parlare brevemente facendo un giro per sul notiziario Ristretti Orizzonti, così guardando un po' di articoli mi sono imbattuta in questa circolare del DAP appunto questa circolare che titola disposizioni in materia di trasferimenti dei detenuti e internati per aggressioni a persone. Allora me la sono letta e così sì, leggendola così mi sono venute in mente molte cose. Ad esempio mi è venuto in mente che in Italia ci sono 13 procedimenti e processi a carico della polizia penitenziaria per violenze nelle carceri di Ivrea, Modena, Viterbo, Monza, Torino, San Gimignano, Santa Maria Capua Vetere, Palermo, Nuoro, Bari e Salerno. Questi sono procedimenti e processi, quindi già avviati. Ci sono poi svariate inchieste, sempre che riguardano il personale di polizia penitenziaria o il personale sanitario interno alle carceri, e sono inchieste che riguardano Venezia. Beh, insomma, anche recentemente c'è stata questa terribile cosa di un giovane pestato quasi a morte da 3 agenti della penitenziaria, che è stato tenuto nel carcere di Venezia appunto senza dargli soccorso anche tutta una notte, e poi è stato trasferito d'urgenza a Verona al carcere di Montorio, ma senza visita medica ovviamente. Queste sono le pratiche che si utilizzano nelle carceri. Questo trasferimento è avvenuto quindi in maniera in stile argentina, però a Verona che il personale sanitario ha preso in mano la situazione, e quindi questo ragazzo è stato ricoverato, è rimasto una settimana in terapia intensiva, è stato comunque salvato e si è aperta un'inchiesta. Poi ulteriori inchieste rispetto alla direzione del carcere e al personale sanitario a Torino, specificamente per Susan, la prigioniera di origine nigeriana che è morta nell'agosto 2023, lasciata morire di stenti, e che aveva iniziato a non mangiare appunto e non bere per vedere il figlio, ed è stata lasciata morire così. Insomma, ci sono tutta questa serie di... Poi Biella, dove hanno addirittura derubato la garante dei diritti dei detenuti perché gliele hanno rubato specificamente gli esposti che gli avvocati dei detenuti le avevano fatto avere. E insomma, in tutta questa florilegio di schifezze che avvengono all'interno delle carceri, appunto, spicca queste disposizioni in materia di trasferimenti dei detenuti e internati per aggressioni a persone. Quindi il mondo alla rovescia, cioè in un mondo nel quale appunto se protesti per non soccombere ti pestano e poi anche ti fanno le sanzioni disciplinari e poi rimangono anche impuniti i tutori dell'ordine, ci sono circolari di questo tipo. Non ve la leggo tutta, se andate su Ristretti Orizzonti la potete trovare, è interessante comunque. Perché parla di recenti gravi episodi di violenza accaduti all'interno degli istituti penitenziari, ma non da parte degli sbirri, ma da parte dei detenuti, che hanno turbato il corretto andamento della vita delle comunità penitenziarie. Perché il corretto andamento della vita delle comunità penitenziarie evidentemente è quella di stare zitti. E nei confronti naturalmente del personale di polizia penitenziaria. E il capo qua del DAP già ricorda che già un'altra circolare evidenziava che l'azione disciplinare costituisce una risposta non solo doverosa, ma concreta e immediata ai comportamenti violenti dei detenuti nei confronti del personale. Ciò allo scopo di evitare che il soggetto percepisca di godere di uno stato di impunità, e quindi viene fuori questa parola impunità, che è molto invece calzante riguardo proprio ai secondini. E poi dice, osa dire che le sanzioni disciplinari hanno una finalità pedagogica, perché praticamente vuole stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo, e deve essere adeguato alle condizioni fisiche e psichiche del soggetto. E insomma poi parla di questi gravi disordini all'interno delle carceri, di questa mancanza, può succedere che il soggetto che compie disordini non manifesti volontà di ravvedimento, e quindi oltre alla sanzione disciplinare può essere messo in sezioni speciali con una maggiore sorveglianza. E poi, se ancora non si pente nemmeno dopo questa restrizione, può venir messo in un regime di sorveglianza particolare, appunto per la sua pericolosità. E purtroppo, ci dice il capo del DAP, praticamente il regime di sorveglianza particolare implica una restrizione calibrata dell'offerta trattamentale. Cioè, scusate, ma sono parole veramente che bisogna ricordarsi. E poi, insomma, arriviamo dopo tutta questa così discorso di sulle varie forme di sanzioni disciplinari di restrizione, arriviamo alla appunto al trasferimento. Allora la circolare dice no, non si può trasferire i detenuti in regime di sorveglianza speciale, però c'è sempre una deroga, per loro c'è sempre una deroga. E quindi se proprio, insomma, i motivi di sicurezza lo richiedono, si può anche trasferire i detenuti o il detenuto, perché poi qua si parla anche di gruppi. E anche se il trasferimento deve sempre seguire il criterio della territorialità, e cioè non deve allontanare troppo la persona dalla famiglia, questo criterio del non trasferimento lontano non è assoluto, quindi praticamente possono fare quello che vogliono. Con i ribelli loro dicono: possiamo fare quello che vogliamo. Ecco, questo è questo qui, cioè questa gente appunto va avanti in questa maniera. Ecco, e poi finisce questa circolare come una specie di, cioè equivale a un pizzino praticamente, dal mio punto di vista. Finisce con questa frase: confido nella consueta collaborazione per assicurare l'efficacia della risposta dell'amministrazione ai comportamenti violenti dei detenuti. Time. Well, that's all my problems at all. I don't care about parties. podcast too. Bene, e lasciamo in sottofondo questa band, loro sono i Black Flag, band storica del punk hardcore statunitense, da un loro album ovviamente uscito recentemente, ma che va a raccogliere le prime cose, le prime registrazioni uscite tramite demo tape del periodo, perché facciamo così una, chiamiamola pausa, comunque chiamiamola pausa dedica, su richiesta che ci è, diciamo, ovviamente giunta qua alla redazione dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ascoltiamo questa band francese, esattamente di Parigi, album uscito l'anno scorso nel 2023, che si chiama Naté, penso in francese. La band sono i Cran, che la loro prima, diciamo, uscita discografica è avvenuta nel 2020 con un 7 pollici, un 45 giri, ma adesso l'anno scorso è uscito questo album in vinile. E comunque cerchiamo, ovviamente speriamo di aver esaudito questa richiesta, che noi con tanto piacere, ovviamente di cuore, la facciamo ascoltare. Speriamo sia un po' giusta, perché c'è stato richiesta il minutaggio del brano all'incirca, ma coincide con due, noi ovviamente facciamo ascoltare entrambi i due brani. Bene, 20 e 31 e 52 secondi, circa le 8 e 32 di questo giovedì 29 febbraio 2024. Un abbraccione a chi ci ascolta dai domiciliari, e, insomma, davvero un saluto sincero, un abbraccio e forza. Sì, questi niente, ascoltiamo sempre in sottofondo questi francesi. Allora, un saluto da parte mia per questa puntata di stasera, di nuovo in diretta. Un intervento questa sera sul, diciamo, come sempre si parla di resistenza, si parla di lotta, di guerriglia, di ribellione, sempre con un occhio critico, sempre con un spirito di recupero di quelle spinte, diciamo, sì, sempre autentiche, sincere, quelle che erano gli aspetti, quelli più che ci colpiscono di più ancora oggi, a distanza di 80 anni, di questi combattenti. E abbiamo messo appunto nella promozione una frase un po' a effetto, questa frase, questo modo di dire giornalistico, cattivi maestri. Adesso cercherò un po' di andare un così, ascolteremo insieme un po' di notizie su questa vicenda. Ma prima di tutto volevo dire appunto che è una questione, come sempre, ecco, non ha nessuna, diciamo, non è un esito, diciamo, di un sentimento collettivo, ma è puramente appunto individuale di chi vi parla, di uno sviluppo di un così di un interesse di chi vi parla, e appunto anche tutte le valutazioni sono appunto mie, personali. Quindi stiamo parlando di un combattente per la libertà nella lotta di liberazione in Friuli. Sì, ci ascoltano anche fuori dal Friuli, ma comunque noi trasmettiamo qui da via Volturno Civico 29, mi sembra, se non sbaglio, comunque boh, da Udine. E Eugenio Candon, nome di battaglia Sergio, e è una medaglia d'oro, tra l'altro, il valore militare. Questi, appunto, tutti questi aspetti aggiunti poi dagli eredi da chi è sopravvissuto a questa lotta di liberazione e non sempre appunto ha portato alla tutte le aspettative, ecco, che avevano i compagni appunto che hanno lottato, le ha portati alla realizzazione, naturalmente, appunto, con tutta una serie di cose non raggiunte e compromessi vari, eccetera. Comunque a noi interessa questa sera parlare di, in particolare, di un paesino che si chiama Castelnuovo del Friuli. Si trova più o meno, ecco, davanti alle Prealpi Carniche, dove appunto poco dopo il ponte di Pinzano, dove il tagliamento si apre alla pianura, finisce appunto il percorso nella parte montuosa e inizia una parte, insomma, prima collinosa e poi in pianura, vicino a Spilimbergo, diciamo, passa anche lì la ferrovia Sacile Maniago Pinzano Gemona, no? È la pedemontana, diciamo, occidentale del Friuli, oggi funzionanti, insomma, sono state varie vicissitudini. Questa ferrovia funziona purtroppo, dico io, fino da Sacile a Maniago, e la parte che appunto successiva non è più aperta al traffico. Hanno interesse appunto la seconda parte, quella non più aperta al traffico, dove appunto c'è anche un ponticello, un cavalcavia proveniente da questo paesino che si chiama Valeriano, è una frazione di Pinzano, e diretto appunto verso le colline, verso Castelnuovo del Friuli, e qui c'è una radura dove un tempo esisteva la fermata, o meglio, sì, non la stazione, ma la fermata della ferrovia Sacile Gemona e la fermata di Castelnuovo, che non è un paese vero e proprio, ma è formato, è un comune sparso, come si usa dire, appunto, è formato da tanti da una miriade di borghi sparsi, e tra cui appunto anche questa frazione che si chiama Mostacins. Si arriva a questa strada appunto leggermente in salita, il cavalcavia, e trasversalmente passa sotto questa ferrata appunto. Qui il 24 aprile 1944, quindi quasi 80 anni fa, un certo Willy, bellunese, 19 anni, insieme a un gruppo di suoi compagni, bloccò la littorina, una mattina appunto, bloccò la littorina che passava piena di operai, pendolari, dell'organizzazione Todd. L'organizzazione Todd, parentesi, era la... è una struttura parallela, diciamo, del Reich, dove appunto penso i maschi fossero, sì, maschi non militarizzati, ecco, per semplificare, erano obbligati ad andare a provvedere, insomma, a spalare varie rifugi o postazioni, svolgere lavori, ecco, in ausiliari all'esercito occupante della Wehrmacht. Questi operai friulani pendolari che prendevano la littorina, arrivò questo gruppo di ribelli, bloccò la littorina. Salirono sulla littorina distribuendo dei volantini per spingerli a scioperare e bloccare, appunto a rifiutare il lavoro obbligatorio, e un compagno appunto che era Eugenio Candon, Sergio, 23enne all'epoca, originario di Valeriano, improvvisò un comizio sempre contro appunto questo lavoro obbligatorio per la Todd. Eugenio Candon, Sergio, era in realtà, sì, era nato e cresciuto a Valeriano, però a 6 anni era mancata la mamma e era stato, diciamo, costretto a seguire il papà era emigrato in Francia già prima della guerra del 15-18, raggiunse il papà che lavorava nei dintorni di Parigi, a Villejuif, una banlieue, diremmo oggi, nella zona meridionale. Quindi lui lì ha fatto tutte le... è andato a scuola, seguiamo un attimo appunto questa vicenda personale, biografica, ecco, di Eugenio Candon, perché mi interessava ritornare su questa questione del che avevamo accennato anche altre puntate, quindi dei cattivi maestri, una dicitura un po' giornalistica, che vuol dire tutto, vuol dire niente, per non dire anche niente, ma comunque niente, volevo tratteggiare questa cosa qua, insomma, dell'influenza che ha avuto un suo docente di università operaia. Magari mandiamo un po' di musica, perché mi sono accorto che è già un po' di minuti che sto parlando. Subentriamo a Henry Rollins per dire che l'azione lì, prima di dimenticarmi, l'azione a Castelnuovo finisce male, nel senso che arriva un camion tedesco, una camionetta con la mitragliatrice, probabilmente c'è stata una spiata, non si è mai capito bene, e fa una sventagliata e purtroppo cadono in sei quella mattina: Giovanni Bonomi, Weber, Antonio Franz, Fulmine, Luigi Palla, Willy, Gianni Rizzi, Tempesta, Aldo Zavagno, Furia e Franco, ignoto. Sei caduti, però sì, Sergio, Eugenio Candon, si salva e continua la lotta. E poi lo diciamo adesso per non dimenticarlo, perirà nel dicembre 44 a Palcoda, nella Valtramontina, nello stesso, diciamo, contesto in cui perirono Battisti e Paola, Iole De Cilla e l'altro comandante, insomma, Battisti, adesso mi sfugge, ma sì, diciamo, raggiunti dai militi di Salò. Era un rastrellamento, era nel mezzo di un rastrellamento e si trovarono isolati in questa località sperduta. Ecco, ma io volevo appunto parlarvi della vicenda di Eugenio Candon, nel senso che appunto era cresciuto in questa banlieue, dicevamo prima, lavora, sì, finisce le scuole, a 16 anni si unisce alla Gioventù Comunista, al PCF, diciamo, 17 segretario, appunto fa una specie di carriera dentro le strutture del Partito Comunista Francese. Non stiamo adesso a dilungarci sulle questioni delle posizioni, insomma, un po' schiacciate sull'obbedienza, ecco, ai dettati di Stalin, dell'Unione Sovietica, del Partito Comunista Francese. Stiamo a dilungarci, quello che ci interessa appunto è che si iscrive all'università operaia. Esisteva questa università operaia in questi sobborghi che sono tuttora, diciamo, le autorità locali sono occupate, sì, posti, cioè il sindaco è del Partito Comunista, del PCF, esiste ancora il PCF in Francia, insomma, sono da una vita appunto lì, e sono questi sobborghi dove appunto il Partito Comunista Francese era molto forte, è molto forte ancora tuttora. No, e volevo dire che appunto studia filosofia e economia con Georges Pulitzer, che poi in realtà era un oriundo, perché era ungherese. Chi era questo Georges Pulitzer? Era il cattivo maestro, appunto, che dicevamo prima. L'influenza che ha dato probabilmente questo compagno ungherese, appunto, era di famiglia ebrea ungherese assimilata, che aveva aderito al Partito Comunista già appunto da ragazzo, 18 anni, anche lui era nato nel 1903 in una località all'epoca appunto ungherese, poi oggi è a sua volta diventata Romania, questo posto che non mi sono trascritto, ma comunque ha partecipato alla comune ungherese del dopo 1918, senza appunto senza avere denunce, va, insomma, vicissitudini, lascia la patria, va a Parigi, si iscrive alla Sorbona, studia filosofia, stringe amicizia tra gli altri con Henri Lefebvre. Ed era appunto questa amicizia con Lefebvre che appunto partecipò anche al surrealismo, poi influenzò anche i situazionisti, ma comunque era un'epoca in cui poi, i tardi anni 20, in cui si respirava questo disprezzo sia per l'interiorità di Bergson sia per il razionalismo di Brunswick, sì, il neocantismo c'era all'epoca. Adesso non abbiamo tempo per, insomma, per dilungarci su questa cosa qua in radio. Tra l'altro, il punto era appunto che questo Politzer era anche aveva un'esperienza, aveva conosciuto appunto la società psicanalitica in Ungheria, praticava l'autoanalisi, quindi aveva vari interessi, non era il tipico marxista così razionalista becero, ecco, detto male adesso, che si potrebbe pensare, insomma, dell'epoca, sì, di quell'epoca lì, di un secolo fa. Ed è anche appunto un traduttore di delle ricerche filosofiche sull'essenza della libertà umana di Schelling nel 1926. Consegue l'aggregazione, inizia a insegnare nei licei, vari licei. Negli anni 30 appunto partecipa alla fondazione di varie riviste, tra cui la Revue Marxiste e altre, con l'obiettivo di far conoscere il marxismo come metodo di ricerca e di azione rivoluzionaria. Metodo di ricerca e di azione rivoluzionaria. Poi in seguito con Lefebvre rompono i rapporti, in seguito al fatto che Politzer appunto sia così, sì, sembra appiattirsi un po' sull'economicismo, e anche sul volume dedicato a Candon, non a caso, un volume di 30 anni fa, ma comunque più di 30 anni fa, si parla di questa università operaia come appunto dove studia i corsi di economia politica, cosa che non è vero appunto, perché se questo Politzer aveva una formazione filosofica niente. Per darvi anche un altro spunto, c'era questo appunto, cioè questo intento pedagogico da parte di questo Politzer, che non era proprio un brocco, ecco, filosofico, e lo trovate anche sulla Garzantina, ecco, di filosofia nominato, quindi non era proprio un brocco, però appunto si dedicò completamente alla militanza. Fondò insieme ad altri l'Università Operaia, appunto destinata a quelli come Eugenio Candon, figli di emigrati, tra l'altro che lavorava come macellaio, sì, aveva trovato lavoro come in una macelleria nei dintorni lì di Villejuif, non trovo più adesso più l'appunto, ma comunque. Ecco, oltre ai corsi di marxismo si facevano anche corsi sullo Stato, e il PCF era visto come il partito della ragione militante, per rifarsi anche a Descartes e al discorso sul metodo di cui correva il tricentenario. E Georges Politzer fu arrestato il 15 febbraio 42, fucilato, e viveva già in clandestinità, e fucilato il 20 marzo 42. Nel frattempo Eugenio Candon era appunto stato arrestato il 1 novembre 1939, perché aveva distribuito i volantini in solidarietà con l'Humanité, che era stata sequestrata, era l'organo del Partito Comunista Francese, internato alla prigione della Santé, condannato a 3 anni, trasferito in altre prigioni, e nel 42 appunto, seguito alle vicissitudini militari, il governo di Vichy lo consegna alle guardie di frontiera fasciste, lo trasferiscono a Udine in via Spalato, dove passa alcuni mesi, e poi al confino alle isole Tremiti, da cui esce il 18 agosto 43, 18 agosto 43 poi raggiunge di nuovo il Friuli, arriva a Valeriano dove ha dei parenti e cerca subito, insomma, i contatti con tutti i compagni che c'erano lì, si unisce alla lotta partigiana e fa la sua carriera di cui abbiamo parlato prima. E mi piacerebbe leggere almeno qualche riga prima di salutarvi sul un bel ricordo di Alfio Tambosso, ultra, un esponente del Partito Comunista nella Resistenza, nome di battaglia ultra, mi sembra, tra l'altro non ho avuto tempo di controllare, ma comunque condannato anche per l'azione alle malghe di Porzus, che lo aveva conosciuto nella zona di Spilimbergo, appunto. Ricordo Sergio, era allora segretario di zona per il mio partito, il PC. Uscivamo appena da una lunga e estenuante riunione clandestina tenuta nella legnaia di Vittorio ad Davour-Lamont, in quello di Castelnuovo del Friuli, quando mi venne presentato. Erano gli ultimi giorni dell'ottobre 43. Mi disse tutto di sé e della sua famiglia, le lotte dei suoi in Francia e della sua attività nella Gioventù Democratica francese. Mi fece subito un'ottima impressione, immediatamente legammo nel senso più stretto del termine, diventammo veri e propri fratelli nel significato più profondo della parola, nel modo in cui, come si diventa fratelli in simili frangenti della vita, viso aperto e intelligente, con nella persona un non so che di modesto e riservato, atteggiamento quest'ultimo derivatogli forse dalla galera subita in Francia e in Italia. Era biondo e bello, di una bellezza che oltre al fisico metteva in evidenza doti particolari di sensibilità e umanità. Era ben voluto da quanti lo conoscevano e letteralmente rapiva quanti e quante uomini e donne lo avvicinavano e con lui discutevano. Con una preparazione politica sconosciuta alla grande massa dei giovani italiani di allora, riusciva a incantare chi lo stava ascoltando. Instancabile organizzatore, era anche instancabile predicatore della necessità della lotta armata, popolare, unitaria, contro il tedesco occupante e il fascismo traditore. Pur aderendo ai principi e alle tesi delle forze politiche della sinistra estrema di allora, era un inflessibile propugnatore di una linea politica unitaria e argomentava la necessità di un'alleanza tra le classi e gruppi sociali che non si riconoscevano nel fascismo, indipendentemente dalle convinzioni d'ordine religioso e ideologico dei cittadini, per poter battere militarmente il fascismo, liberare la patria e l'occupante nazista. Scevro da ogni settarismo, resta indimenticabile la sua personale azione per lo sciopero di protesta degli operai costretti al lavoro obbligatorio dall'occupatore. Fermato audacemente il treno operaio, improvvisava un grande comizio, il nemico non esitò di fronte alla strage e Sergio si salvò per puro caso. La mitraglia falciò diverse vite, fece feriti tra gli operai. Indimenticabile resta anche la sua azione politica nelle formazioni partigiane. Mordeva il freno nello spasmodico desiderio di andare in montagna tra quei gruppi partigiani che già allora erano attivi e che tanto aveva contribuito a formare, quasi un predestinato. Tutto per la lotta armata era la parola d'ordine del suo partito e a centinaia di giovani affluivano nelle formazioni partigiane. Innumerevoli volte, ricordo, chiese di lasciare l'attività in pianura per dedicarsi completamente alla lotta armata e il suo partito lo accontentò. Si trasferì in montagna come commissario politico di un battaglione partigiano garibaldino. Nell'estendersi e ingrandirsi del movimento partigiano, le sue responsabilità aumentarono di conseguenza fino a raggiungere quelle di ricoprire i più alti gradi, eccetera, eccetera. La sua attività e le sue gesta sono indelebilmente impresse nell'animo dei suoi partigiani che tanto lo amavano e sono consegnate, non è retorica, la storia ne fa testimonianza. Il suo eroico trapasso, venne trucidato dal nemico durante un'eroica resistenza. Onore e vanto della sua Valeriano, riposa nel cimitero locale accanto ai suoi compagni di lotta. Era appunto un ricordo di Alfio Tambosso, ultra, del dicembre 75, un bel po' di quasi 50 anni fa. Noi, ecco, concludiamo questo intervento perché abbiamo sentito l'esigenza di farlo, perché appunto c'è ancora oggi un bel cippo in ricordo di questa azione così, questo comizio improvvisato, e ci ha ricordato così che sempre è possibile alzare il tiro, così tenere alto l'ideale anche in momenti che non sembrano propizi. E davvero un ricordo appunto di questo compagno che ne ha passati di tutti i colori, vissuto così brevemente come tanti altri, insomma non ha visto tutto quello che è seguito alla liberazione, forse per fortuna a questo punto. E, però volevo dire ancora una cosa, classico crisi. Che è importante, appunto, non l'ho detto per fare retorica, non l'ho tirato fuori per fare retorica, fuori dalle date, fuori dalle ricorrenze e fuori anche dalle manacce dei soliti quelli appunto che gestiscono questo genere di documenti e ricordi, che malamente, insomma, con mille compromessi, con mille parole vuote pronunciate al vento ogni anno nelle ricorrenze, invece ecco, era un tentativo di fare un ricordo sentito di questo giovane compagno così, questa sera, ecco. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Noth Ecco, allora cambiamo un po' argomento, però in realtà parliamo sempre di resistenza e nello specifico di resistenza del popolo palestinese al dominio sionista e anche di resistenza dentro le carceri israeliane e nello specifico della resistenza delle donne, della lotta e della resistenza delle donne. E allora lo facciamo perché almeno iniziamo a farlo, diciamo, stasera, perché domani, che è il primo marzo, venerdì 1 marzo, alle ore 20:30, nello spazio autogestito di Via De Rubeis, qui a Udine, proietteremo un film, appunto, che si intitola Women in Struggle, cioè Donne in Lotta. È un film del regista Khoury, che è una regista indipendente palestinese, la quale praticamente è stata una delle prime documentariste palestinesi che hanno trattato appunto argomenti politici, diciamo, piuttosto importanti, e questo è il suo primo documentario, è del 2004, e lei ha proprio creato, diciamo, una casa di produzione che si chiama Majid, e a Ramallah, e proprio per produrre documentari delle donne, e anche in questo ambito, diciamo, c'è una sorta di scuola per le giovani che vogliono avvicinarsi, insomma, a questa arte, diciamo, e vogliono soprattutto utilizzare l'arte del cinema e del documentario a scopi politici. E allora questo documentario ci racconta, ha come protagoniste quattro donne, e quattro donne, tre delle quali, diciamo, hanno lottato, hanno partecipato alla lotta anche armata tra gli anni 60 e gli anni 70, e una invece più giovane. E queste donne vale la pena di ricordare. Poi, insomma, vi invito a venire a vedere il film, perché è veramente interessante, ci sono tanti spunti anche di cui discutere. E allora le protagoniste, diciamo, principali sono Rasmea Hodeh, che è una, e sua sorella Aisha Hodeh. Entrambe erano guerrigliere del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, vengono incarcerate praticamente, hanno pochi anni di differenza, loro vengono per delle azioni, insomma, vengono incarcerate alla fine degli anni 60, nel 1969, Rasmea, per la precisione, ha 22 anni, e fa 10 anni quindi di prigione in Israele, poi viene liberata dopo 10 anni in uno scambio di prigioniere, e si trasferisce, è costretta, come succede alle donne, è una, diciamo, una situazione che si ripete abbastanza spesso, questa cosa di essere condannate. Lei aveva l'ergastolo, e anche Aisha erano in realtà condannate all'ergastolo, ma poi appunto c'è questa cosa dello scambio di prigionieri, e che però che ha, diciamo, sempre le donne sono molto spesso oggetto di scambio, no? Vengono liberate attraverso questi scambi molto spesso, e il destino però è quello di andare in esilio, naturalmente non possono, sì, e quindi un destino abbastanza gramo. E nello specifico Rasmea praticamente viene deportata dai territori palestinesi occupati, diviene però attivista ugualmente in Libano e Giordania, e poi si trasferisce negli Stati Uniti, dove anche lì dà origine a un comitato delle donne arabe, il comitato delle donne arabe di Chicago, e anche negli Stati Uniti ha problemi, viene accusata di violazione delle leggi sull'immigrazione in quanto non aveva dichiarato la sua detenzione, insomma. E anche perché lei avrebbe voluto in tribunale parlare delle torture, perché sia Rasmea che Aisha sono delle sopravvissute alle torture dentro le carceri israeliane, però non gli è mai stato concesso di parlare di queste torture, e appunto nel 2014, all'età di 67 anni, finisce in galera nel Michigan, negli Stati Uniti, e vabbè, la tengono in isolamento prolungato, insomma, quindi un accanimento. Poi alla fine ritorna Arafat, ritorna in Palestina. E, ecco, similmente anche la sorella, insomma, in questo documentario appunto c'è questo abbastanza approfondito intervento di entrambe le sorelle, che parlano delle lotte, tra l'altro in una maniera, hanno un temperamento, soprattutto Aisha, molto combattivo, non gliele manda a dire, insomma, sì, ai militari, appunto ci sono delle scene al checkpoint, insomma, e lei non gliele manda a dire, manda in casino, insomma, i militari, il militare, con tanto di, anche se al mitra non gliene frega più di tanto, e lo manda appunto in casino, e insomma raccontano appunto delle lotte, raccontano anche, cantano, cioè ricordano anche canzoni, così, momenti di creativi, diciamo, della lotta. E poi però c'è anche questa dimensione molto dolorosa, molto profondamente dolorosa, della tortura e di quello, e di come questa esperienza, come il carcere, dicono, insomma, il carcere ti rimane dentro, di come questa dimensione della tortura non ti abbandoni più. E poi c'è appunto, l'altra protagonista è Ravda Bashir di Nablus, che è stata 8 anni in prigione, anche lei una figura molto interessante, che torna, diciamo, nel suo, perché non può più starci, e torna nella sua casa natale, la quale però è stata occupata dai coloni israeliani, perciò lei non può, diciamo che le persone palestinesi che sono costrette a convivere con questi maledetti coloni israeliani non la fanno neanche entrare in casa, perché c'è una situazione, insomma, di oppressione, e lei è veramente molto arrabbiata. E poi, dicevo, c'è questa, di cui non ricordo il nome, questa quarta insomma militante, compagna più giovane, che vive proprio praticamente a pochi metri dal fatidico muro che in quell'anno stavano costruendo, insomma, separata dal marito, racconta, insomma, che il marito può andare solamente poche ore alla settimana a vedere le figlie, perché altrimenti, se va oltre quel numero di ore, diventa una persona illegale nella sua casa. Quindi, insomma, tutte queste cose qua. Allora, questo film è importante perché, oltre a raccontare le storie in maniera molto dettagliata di queste donne, viene anche a sfatare, diciamo, il pregiudizio orientalista che vede le donne arabe e musulmane, purtroppo nella cultura anche occidentale, così, come sottomesse, subalterne. In realtà, di questa cosa, insomma, si lamentano anche le compagne più giovani, che fanno parte di collettivi di donne palestinesi. Cioè, anche le compagne più giovani dicono che è difficile che il loro posizionamento, diciamo, venga compreso e ascoltato in Occidente. Questo anche perché Israele ha fatto tutta questa opera di pink washing, per cui rappresenta l'unica democrazia del Medio Oriente, è la patria dei diritti delle comunità queer, LGBTQ, eccetera, e mentre le donne palestinesi sarebbero, diciamo, sottomesse, schiacciate da un sistema barbaro. Questa in realtà è una cosa assolutamente mistificatoria. E giustamente le compagne palestinesi dicono che bisogna aver ben presente che la lotta non può che essere praticata contro un duplice nemico, cioè contro il dominio coloniale sionista e contro il patriarcato, diciamo, e il capitalismo, cioè la violenza patriarcale e capitalista. E non si può assolutamente fare una cosa senza fare l'altra. E, allora, rispetto, appunto, dicevo, queste donne che sono protagoniste del documentario, sono circa, hanno circa adesso un 70 anni, 70 e poco più, insomma, quella generazione lì, quindi le donne nate nel 48, 44, 48, eccetera, che hanno vissuto la Nakba del 48, quindi hanno vissuto l'esilio forzato di, e quindi un'esperienza durante la loro infanzia, quindi un'esperienza devastante, e hanno anche vissuto questa precarietà del vivere degli aiuti umanitari dell'ONU, perché erano nei campi profughi, non c'era altra alternativa. Contemporaneamente però hanno potuto studiare, molte di loro hanno potuto studiare, hanno avuto la possibilità di formarsi anche politicamente, e poi hanno appunto diciamo dopo il 67, dopo la guerra dei sei giorni, che ha diciamo consolidato l'occupazione coloniale di Israele, da parte di Israele della Palestina, hanno iniziato la lotta, ma hanno lottato molto, non solo con mezzi militari, ma c'è tutta una lotta fatta anche di auto-organizzazione, appunto, delle strutture formative, della produzione del cibo, della trasmissione della memoria alle nuove generazioni, perché i palestinesi, il popolo palestinese ha questa peculiarità di dare una grandissima importanza alla memoria. Cioè i bambini, anche se sono nati, diciamo, essendo che è occupata da, c'è questa situazione di occupazione, di espropriazione da 75 anni, ovviamente i bambini sono nati già in questo mondo, diciamo, alienato, però la memoria che viene trasmessa è molto forte, per cui, per dire, anche il fatto anche delle case occupate o distrutte o occupate dai coloni, le palestinesi e palestinesi conservano la chiave e sì, delle loro case, diciamo, alle quali non possono più tornare, e passano questa chiave di generazione in generazione proprio per non dimenticare. E in questo lavoro di rielaborazione della memoria, le donne hanno avuto un ruolo molto, hanno avuto e hanno un ruolo molto importante. Magari mettiamo un pezzo e poi concludiamo. Sì, appunto, dicevo di questa importanza della trasmissione da generazione a generazione, insomma, della memoria delle lotte, della memoria della Palestina, della memoria delle terre, eccetera. E approfitto per dire che oltre alla proiezione del film, appunto, Women in Struggle, ci sarà anche l'esposizione di una mostra sulla detenzione nelle carceri israeliane dei bambini e dei ragazzi palestinesi e anche tutte le forme di tortura a cui sono sottoposti. Perché va detto che Israele prevede che i palestinesi possano essere messi in carcere a partire da 12 anni. E poi c'è un altro discorso da fare sulle carceri israeliane, cioè c'è questa forma di, viene definita proprio una apartheid carceraria, nel senso che c'è come un diritto penale, cioè ci sono come un diritto che vale per i sionisti e gli ebrei, comunque gli israeliani, diciamo non arabi, e invece un diritto che vale per i palestinesi, e cioè i coloni vengono giudicati da un tribunale civile, invece i palestinesi vengono giudicati da un tribunale militare. E questo discorso della carcerizzazione, diciamo, della società è importante perché dal 48 a oggi circa oltre un milione di palestinesi sono stati arrestati. Quindi vuol dire che il 40% della popolazione maschile è andata dentro. E quindi diciamo che ogni famiglia ha almeno un componente che ha vissuto l'esperienza carceraria, e quindi questa faccenda del carcere è proprio pervasiva, diciamo, e anche in un certo senso diciamo che va a influire, insomma, anche sull'identità, no, delle persone. E poi le carceri sono veramente spietate, e le prigioniere e prigionieri palestinesi subiscono di tutto. E va detto però che soprattutto a partire dagli anni 70 le prigioniere e i prigionieri hanno saputo trasformare la prigione in un laboratorio rivoluzionario, e quindi poi le donne hanno lavorato tantissimo da questo punto di vista, pur essendo una minoranza, diciamo, rispetto alla popolazione carceraria generale, e si sono organizzate molto in comitati, appunto, all'interno, e quindi organizzando delle cose in clandestinità all'interno del carcere, dalla formazione di base a insomma tutte le questioni dell'autodifesa rispetto all'istituzione carceraria stessa, o del far valere i propri diritti rispetto all'istituzione carceraria. E hanno messo in atto anche forme di lotta importanti. Allora, nello specifico vi cito questo che ho ascoltato in una trasmissione di Blackout, una ricercatrice indipendente molto interessante, insomma, che ha parlato diffusamente di delle forme di organizzazione delle donne prigioniere. Lei diceva che, ad esempio, dopo gli accordi di Oslo, i famigerati accordi di Oslo, che sono stati spacciati per accordi di pace, ma che invece hanno incrementato l'occupazione israeliana, c'è stato un accordo subito dopo, quindi 94, 95, 96, quegli anni lì, c'è stato un accordo per la liberazione di prigioniere e prigionieri. E in un carcere, insomma, il direttore, annunciando la liberazione, ha detto che però 5 delle detenute, siccome avevano ucciso dei militari israeliani, sarebbero rimaste in prigione. Quindi le donne di quella sezione lì si sono riunite e hanno deciso collettivamente di rifiutare la liberazione, perché la lotta è collettiva e la liberazione deve essere collettiva. Questa lotta è durata 16 mesi, cioè hanno fatto 16 mesi di sciopero, sciopero della fame e anche altre cose, e si sono chiuse nelle celle e hanno resistito ai tentativi di essere tirate fuori, insomma, con la forza, sia da parte della forza dell'ordine israeliane, ma sia anche da parte dell'autorità nazionale palestinese. E insomma, dopo questi mesi, 16 mesi di dura lotta, hanno ottenuto la liberazione di tutte le donne, quindi anche quelle che erano accusate di aver ammazzato dei militari israeliani. Tanto che nel 1997 è l'anno in cui non c'è stata più nessuna donna prigioniera nelle carceri. Boh, per dire che questi anche forme di lotta molto dura e molto efficace anche alla fine, cioè che insomma rappresentano un patrimonio, diciamo, delle lotte nelle carceri. E ecco, allora ritorniamo alle nostre protagoniste di Women in Struggle. Appunto, gli anni 70, cioè gli anni in cui loro lottano, sono caratterizzati dalla nascita di comitati popolari locali che sono fondamentali perché preparano anche, diciamo, la prima intifada, no? Cioè la prima intifada, che è dell'87, e praticamente negli anni 80 questi, grazie al fatto che ci sono questi comitati popolari locali e quindi c'è una formazione così rivoluzionaria e politica e di resistenza dal basso, e è possibile una forma di resistenza efficace, e è importante perché il femminismo che praticano queste donne combattenti è inclusivo, cioè non lascia indietro, diciamo, nessuna, neanche quelle donne che magari non avevano avuto la possibilità di avere una formazione politica perché magari venivano dalle campagne, oppure erano avevano un'età magari più elevata, oppure magari erano nei campi profughi e quindi non avevano avuto la possibilità, insomma, di formarsi politicamente. Quindi c'è questa dimensione inclusiva e popolare molto molto forte. Bene, 9:29, quindi siamo quasi agli sgoccioli. Allora io ricordo, sì, c'è da dire questo, che dico ancora questo: dopo il 7 ottobre la disumanizzazione, diciamo, da parte della propaganda sionista e anche da parte di tutta la cultura occidentale che gli va dietro, la disumanizzazione dei palestinesi, maschi e anche femmine, maschi visti come brutali, aggressori, eccetera, femmine viste come viste con la diffidenza, diciamo, demografica, perché i palestinesi fanno tanti figli e quindi c'è questa, diciamo, ansia demografica nello stato israeliano, per cui c'è di conseguenza anche questo accanimento sulle donne, sul corpo delle donne, quindi questo utilizzo dello stupro, dell'attacco alla fisicità e dell'attacco anche alla capacità riproduttiva. Vediamo che essere palestinese e essere incinta adesso nella striscia di Gaza equivale a un disastro, perché non c'è assolutamente nessuna possibilità, insomma è molto dura. E appunto dopo il 7 ottobre tutto questo è moltiplicato all'ennesima potenza. E ricordiamo che tanti arrestate e arrestati, ma anche tantissime donne, non si sa dove, cioè sono state arrestate, probabilmente sono nel deserto, parliamo delle arrestate nella striscia di Gaza, e però non si sa nulla di loro, cioè sono, diciamo, in un limbo di... Ecco, quindi domani sera, venerdì 1 marzo, presso appunto lo spazio autogestito di Via De Rubeis 43 a Udine, faremo questa iniziativa solidale con la lotta del popolo palestinese, proiezione di Women in Struggle, documentario della regista Kouri, e esposizione della mostra su, appunto, la detenzione e la tortura di bambini e ragazzi da parte dell'esercito israeliano, dei bambini e ragazzi palestinesi da parte dell'esercito israeliano. Oh. Bene, siamo proprio al termine, anzi siamo anche oltre il tempo consentito a nostra disposizione per questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21.30 in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine, oggi giovedì 29 febbraio. Un po' tutto insomma in fretta, solitamente diamo i nostri contatti, comunque potete riascoltare questa trasmissione e anche quelle delle volte scorse su zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Potete scriverci tramite posta elettronica a liberetutti@autistiche.org oppure ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121. Salutiamo anche chi ci ascolterà domani in replica sulla web radio Radiazione. Ricordo, dico per insomma giusto, che questi brani dell'ultima mezz'oretta circa che abbiamo ascoltato in sottofondo sono tutti estrapolati da una compilation Benefit che si chiama No Genocide e Benefit for a Mutual Aid in Gaza, che si trova in rete, è uscita in formato digitale anche scaricabile perché era uscita inizialmente in cassetta, comunque ci sono tutti i dati per raccogliere, e anche chi volesse, oltre a scaricarla gratuitamente, ma mettere un obolo o quanto vuole. Poi ci sono anche altri siti che fanno riferimento direttamente alla Palestina, e ci sono all'interno un sacco di band del punk hardcore, tra che ne so, così a caso, Mob, Oi Polloi, Behind Enemy Lines, eccetera eccetera, e non so se ho dimenticato qualcosa. Vabbè, ciao a tutti e al prossimo giovedì.